Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Noto il cane, un pastore tedesco enorme che mi guarda interrogativo e un po' eccitato. E poi vedo il mio amico che viene spinto fuori dalla nave. E infine vedo un secondo finanziere, enorme, che mi prende in consegna e mi invita ad entrare in una stanzetta minuscola. Sono Emanuele Vicentini, ho 39 anni, vivo tra Ferrara e Bologna e mi piace tantissimo viaggiare, sia per lavoro che per piacere. Avevo 24 anni, era una sera d'estate e da Trento stavo andando a Rovereto con la Twingo di mia mamma, che mi prestava all'epoca, e Federico Bianco, che era l'amico con cui stavo lavorando all'epoca per un programma di un'altra radio in diretta da Trento. Era estate, andiamo al concerto di Frankie High Energy, che era stato ospite da noi in trasmissione, e faceva un concerto appunto a Rovereto. Sulla strada c'è un po' di traffico, becchiamo dei ragazzi che fanno l'autostop. Andate al concerto di Frankie, dai, salite. Salgono questi due con lo zainetto in spalla e poco dopo ci ferma la polizia. Ragazzi, se avete roba, tiratela fuori subito. E io li guardo e dico: no, scusatemi un secondo, loro io non li conosco, li ho caricati su, giuro, dietro l'angolo qua, 50 metri fa. Mi spiace ragazzi, dai, forza, anzi, tutti giù, facciamo salire i cani. Buongiorno a tutti, sono le 16:10, è uno splendido venerdì, è l'11 di aprile del 2014 e oggi vorrei che tutti voi tornaste con la mente a quel momento che vi è successo, credo che vi sia successo, forse solo a mia madre non è mai successo, dico a una, che penso a una persona che non è mai stata abbia avuto un controllo antidroga nella sua vita, ma poi invece magari ce l'ha avuto. Voi non avete niente, siete proprio pulitissimi, eppure, dai, forza, senti, non farmela tirare fuori, guarda, se la cerco io è peggio, ma non ho niente e tu non sai come dirglielo, guarda, non controlla, non ho niente. Poi però un dubbio ti viene, oddio, però che ne so, magari qualcuno ha messo dentro qualcosa, magari qualcuno mi ha manomesso la macchina, o qualcuno magari, come succede a Emanuele nella puntata di oggi, mi ha aperto la borsa. 349 238 6666, abbiamo un profilo Facebook ovviamente che Voi Siete Qui Radio 24, o un profilo Twitter che Voi Siete Qui R24. Storie tutti i giorni alle 16 in punto, una storia al giorno, una persona diversa ogni giorno, per cercare di fare un quadro di chi siamo, di dove siamo e un pochettino anche di vedere la vita da un punto di vista diverso. Immaginate di essere su un traghetto, siete tranquilli e a un certo punto un grosso cane abbaia contro di voi. Quella che sto per raccontare è una storia vera. Non c'è nulla di inventato e nulla di verosimile, anche se così sembrerebbe leggendo. Matrimonio di un chiaro amico, Mirko, anzi due cari amici, Lisa e Mirko. Loro sono dei giramondo, ora vivono ad Amsterdam, ma lei è originaria di Catania e lì decidono di celebrare il loro matrimonio. Il gruppo di amici di lui, tra cui io, parte dall'Emilia, 30, forse 40 persone. Naturalmente tutti prendono l'aereo e in un'ora sono giù a godersi un weekend di mare. Mirko mi ha chiesto di fargli da testimone, un attimo di gioia intensa e purissima. Un nostro amico, è aerofobico, penso non abbia mai preso un aereo in vita sua, e ha già annunciato a tutti che si avvarrà come sempre del treno per raggiungere la Sicilia. Gli lancio la proposta: andare in treno a Napoli, farci un giretto in città e poi imbarcarci al porto e raggiungere la destinazione dopo 12 ore circa, la mattina successiva. Io per lavoro faccio la promozione di una fiera, per cui vado tanto, viaggio tanto all'estero, vado a visitare le altre fiere oppure le aziende che possono venire ad esporre nella nostra fiera, e prendo tra i 60 e gli 80 aerei all'anno circa. Per una trentina di euro prendiamo un bel posto ponte e con altri 30 un treno ad alta velocità che dall'Emilia ci porta sotto il Vesuvio. La soluzione intrigante e inedita del traghetto fino a Catania consente una logistica perfetta. Partenza davanti al Maschio Angioino e arrivo alla porta d'ingresso della città di Catania. Voglio dire, perfetto. Possibilità di spostarsi a piedi per passare da un mezzo all'altro, impagabile vista del Golfo di Napoli dal mare al tramonto e tutte quelle cose lì. Un'incisione di tracce lungo lo stivale e l'arrivo preciso giusto alcune ore prima della celebrazione, con delle belle borse sotto gli occhi, si intende, con la notte passata sbattuti su una poltrona oppure stesi sulla moquette. Il viaggio in realtà è molto piacevole, passato tra un sacco di chiacchiere tra noi e un giro in taxi per vedere le bellezze di Napoli. All'alba mi ritrovo al ponte posteriore del traghetto a respirare l'aria di mare del sud, con il cielo che passa dal blu cobalto all'azzurro, poi rosa e una piccola conformazione di nubi all'orizzonte, come una piccola firma in cielo, in basso, a destra. Abbiamo appena passato il punto dello stretto e guardando indietro vedo il faro di Scilla illuminarsi sulla destra, intermittente. Sulla sinistra una grande antenna sull'estremo punto della Sicilia. Sono felice. Vado a svegliare Nicola, rannicchiato su una poltrona. Ancora addormentati e con un sorriso ebete in faccia, prendiamo le nostre borse e infiliamo scale di discesa, cercando di chiudere un discorso cominciato 20 ore prima, a Bologna ancora. Di sotto, subito prima dell'uscita, scorgiamo un paio di figure in bianco, probabilmente addetti alla stazione marittima a terra, e alcune altre in grigio. I soliti finanzieri, anche loro assonnati, che faranno finta di fare i soliti controlli, che palle. E che bello il sole della Sicilia, splendente, appena fuori il buio delle scale che stiamo scendendo. E poi sento una voce. «Uè, fermo, fermo, fermo, venga con me, per piacere, lei, vada, scenda!» Una delle figure in grigio entra nel mio campo visivo e in qualche modo mi distrae dal mio torpore. Cosa vuole? Ci metto un po' a capire. Prima noto il suo sguardo serio, torvo, il suo braccio che prende il mio proprio sotto l'ascella e poi noto il cane, un pastore tedesco enorme, che mi guarda interrogativo e un po' eccitato. Poi vedo Nicola che viene spinto fuori dalla nave e infine vedo un secondo finanziere enorme che mi prende in consegna e mi invita ad entrare dentro una stanzetta minuscola nell'incavo della nave, aprendo una porta arrugginita mentre tutti gli altri passeggeri mi osservano mentre scendono. Vorrei essere chiaro. Un minuto prima ero a fotografare un'alba meravigliosa dal mare baciato dal sole di fine settembre, sognando una colazione regale. Un minuto dopo sono in una stanzetta di ferro arrugginita e minuscola con un signore scuro in volto e molto, molto più alto di me che risoluto mi guarda e mi dice «Forza, dai, tirala fuori!» Mi si aprono d'un tratto gli occhi, ma mica capisco. Il cane ha segnalato, tieni della droga nella borsa. In un momento sento freddo lungo la schiena. Ma non ho nulla, ma stiamo scherzando? Io cerco di replicare. Senti, il cane ha segnalato e il cane non sbaglia mai. Quale cose stanno così? Se la tiri fuori tu, è un conto. Se mi costringi a cercarla, il reato cambia e sono tutti i cazzi tuoi. Il pensiero della granita di mandorle scompare dalla mia testa. Quello del matrimonio rimane. Ma non so che cosa dire, non so cosa stia cercando questo signore in grigio. Senti, io non ho niente. Certo, dicono tutti così. Però, ammetto, io non ho controllato la borsa minuto dopo minuto. Voglio dire, ho dormito qualche ora, non è chiusa con un lucchetto. No, caro mio, questi sono tutti fatti tuoi. Allora, che facciamo? Me la dai, sta droga che nascondi nella borsa, oppure mi costringi a fare un'ispezione? In quel momento, devo dire la verità, dopo un secondo, una frazione di secondo di sorpresa, ho provato davvero freddo lungo la schiena e paura proprio che la cosa più brutta in assoluto potesse concretizzarsi. Ho un'eccitazione strana addosso. Mi stanno accusando di essere un corriere della droga da Napoli a Catania. Chissà com'è fatto un pacco di droga. Poi che droga? Eroina? Cocaina? O che altro? Per un attimo, mentre il finanziere apre la zip della borsa, mi sembra quasi di vederla. Poi la testa si blocca per un secondo, cioè, allora fammi capire. Se davvero questo lo trova, cioè se trova quel pacco nella borsa, che la mia immaginazione sembra intravedere in questo momento, per me si aprono le porte del carcere. Quanti anni si beccano per un reato del genere? C'è la condizionale? E se corrompessi il finanziere? È un turbinio di pensieri, tutti in un secondo. Deglutisco, sento una riga di sudore giù dalla tempia destra. Penso per un attimo alla telefonata che farò a mia mamma. Mamma, c'è stato un terribile errore, e lei giù a piangere. Penso a tutto quello che diranno di me, al matrimonio in cui ero stato invitato come testimone, anzi, lo faranno lo stesso, il matrimonio, anche senza di me. Intanto le mani del finanziere scavano sotto la mia roba, lente e un po' indolenti. Poi la porta, cigolando, si apre Una testa spunta e chiede: e allora? Ma nulla, tu che dici? Che dico? Si sarà sbagliato il cane. Si sarà sbagliato il cane. Ma vaffanculo. Poche ore dopo sono a ridere raccontando la storia al matrimonio, tra le colline deserte e gli edifici barocchi. Ma che paura e che spavento. Il matrimonio è stato tra i più belli, anzi forse il più bello cui sia mai andato. Ci ho visto amore e un sacco di prospettiva comune. E non avete idea di quanto mi sia ubriacato. Oggi è passato oltre un anno e farò un po' festa anche io con Lisa e Mirko, ricordandoli con questo racconto. Ma la sera dopo, prendendo il traghetto di ritorno, sono stato ben attento a chiudere la borsa con un lucchetto grosso così. In the waiting days ahead, I gotta look back down the road. I know that it's not too late. All the stupid things I said, the people I hurt and let down. But I hope that it's not my fate. Degli occhiali da sole, una maglietta a maniche corte bianca, un timone, immagino, di una barcavela in mano e alle sue spalle il mare. Questo è Emanuele, questo è nella foto che trovate sul nostro sito radio24.it. Pronto Emanuele? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ah, molto bene, tu? Io sto benone, ti ringrazio. So che non sei in Italia oggi, dove ti trovi? No, non sono in Italia, per lavoro sono in Turchia, ad Istanbul. Ah, beh, tu, Emanuele, visto che insomma noi ci conosciamo, nel senso che tu sei un affezionato del programma, vieni ai live e ormai un pochettino siamo stati anche alla fiera che organizzi tu come radio, come Radio 24, ricordami. La fiera Autopromotec a Bologna, sì, l'anno Autopromotec, esatto, l'anno scorso eravamo a Bologna. Tu ricordi a tutti noi esattamente cosa fai, perché fai un lavoro che visto da lontano sembra bellissimo, perché sei sempre in giro per il mondo. Sì. Diciamo che promuovo a livello internazionale la fiera che si tiene a Bologna ogni 2 anni, per cui 5 giorni c'è la fiera, il resto del tempo bisogna promuoverla in tutto il mondo, perché ormai c'è la globalizzazione. E l'hai detto, globalizzazione, hai voluto usare questa parola. Cioè quindi vai in giro a fare 4 chiacchiere, ciao, ti ricordi di me, sono quello di Bologna, facciamo la fiera, esatto. Non hai da portarci dei pneumatici da trattore. Mi raccomando, vieni a Bologna a comprare, oppure ad esporre, oppure a visitare, perché la fiera del successo la fa quanta più gente viene, no? Emanuele, ma toglimi una curiosità, tu che ci sei dentro, no? Noi qualche giorno fa eravamo a Vinitaly e insomma lì c'è veramente un casino di gente e io ogni volta che vado a queste fiere mi domando, ma servono veramente, cioè si fanno veramente affari ancora in questo modo? Perché comunque la fiera è veramente uno degli strumenti più antichi del mondo. Sì, esatto, ma secondo me allora si fanno affari nei mercati nuovi, per questo che io viaggio tanto, invece nei paesi come l'Italia funziona per farsi vedere che si è ancora vivi, non so se mi spiego, cioè nel momento in cui non mi presento magari il mio concorrente ha la porta aperta per entrare. Ah, quindi bisogna esserci in qualche modo. Sì, cioè sì, bisogna sì. Presidiare. A Istanbul che fiera è esattamente? È sempre una fiera del mio settore, cioè tutti i componenti dell'auto, come fare la manutenzione, tutte queste cose. E a che punto sono in Turchia? Come sono messi in Turchia con l'automobile? Ma guarda, tantissime auto producono qualunque cosa. Qua ho scoperto ieri c'è la Fiat Linea, che è bella, insomma, interessante. Cioè, è un'automobile? È un'automobile, perché sai come in Brasile fanno i modelli per, certo, i mercati locali, no? E che forma ha la Fiat Linea? È tipo una regata, però degli anni 2014. Perfetto, però diciamo con la parola regata ci hai dato una splendida immagine. Emanuele, veniamo alla storia invece, perché tu sei un ragazzo per bene, no? Per cui viaggi, o viaggi oltre che per lavoro, anche come ci racconti, per piacere e per andare in questo caso a un matrimonio. E a un certo punto, quando vedi i cani, esattamente io lo capisco, perché da quel punto di vista lì anch'io, diciamo, mi considero un ragazzo per bene. Quindi ogni volta che ho visto, ed essendo astemio anche, no? Carabinieri o poliziotti. Scusami, con i cani o col palloncino, dicevo, ragazzi, non c'è nessun problema. Io non bevo, non fumo, venite a me. Poi, però, giustamente uno dice, io la borsa l'ho lasciata lì ed è stata lì tutto il tempo, giusto? Esatto, è stata lì, e nel frattempo io, insomma, siccome questa traversata è durata 12 ore, insomma, per quanto sia stato complicato, un pochettino mi sono abbioccato durante la notte su queste poltrone da trasbordo che conosciamo bene, no? Anche tu, certo. Immagino che abbiamo fatto parecchi viaggi da Passaggio da Ponte, il buon vecchio Passaggio Ponte. Quindi, insomma... E quindi ho detto, forse è successo qualcosa, forse no, però sai, c'erano questi occhi che mi puntavano, questi occhi del cane che mi puntavano, quelli del finanziere, ho detto, oddio, tocca a me, questa è stata la mia. Che poi lì la questione è sempre, dai, senti, dicelo subito, cioè sai qualcosa, dicelo subito, e tu dici, guarda, io te lo direi anche subito, però in realtà non c'è proprio niente, quindi la verità è che il cane si era sbagliato, quindi sti cani si sbagliano. I cani si sbagliano, perlomeno all'approdo del porto di Catania i cani si sbagliano. Poi anche se un pastore tedesco evidentemente aveva un po' un'indole meridionalistica, no? Anche, vabbè, dai, mi sono sbagliato. Senti, invece, l'indole meridionalistica del pastore tedesco non è male. Nella foto che ci hai mandato, che ho raccontato un attimo fa, tu sei sorridentissimo su una barca a vela. Ci dici dove sei, in quale parte del mondo? No, nessuna parte particolare, sono nel nostro mare della Romagna, per cui era un'uscita proprio per soddisfare il mio desiderio primario ogni tanto di fare un'uscita in barca quando non la posso fare in posti più belli come la Sardegna o la Liguria. Infatti, come puoi vedere, l'altezza dell'onda di 3 centimetri un po' testimoniava. Una giornata molto tranquilla con gli amici. Emanuele, cosa si fa stasera a Istanbul? Vai a mangiare, vai a una festa, vai a ballare? Stasera si va, no, ovviamente si va a cena con clienti oppure con cose di questo genere, e poi dopo si va a letto perché domani si ritorna in Italia per il weekend. E cosa mangi questa sera? Cosa ti piace del cibo turco? Ah, bravo, ma non lo so, le mezze, cose di questo genere, insomma. Le, scusami? Posso dire una cosa, Matteo? Una cosa solo a te, che colgo l'occasione. No, volevo dire che mi ricordo ancora la prima puntata che ho ascoltato di Vendo Tutto, tu vendevi una racchetta, era il gennaio di 3 o 4 anni fa. Sì. E ascoltando le tue storie, le storie delle altre persone prima della mia, posso dirti che un pochettino anche... Spero in meglio. Emanuele, ti ringrazio molto, ti lascio tornare al tuo lavoro. Buona giornata, grazie. Ciao, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Saluto a voi. Ciao, ciao, ciao. E intanto al 349-238-6666 mi scrivono che a Barcellona diversi taxi sono Fiat Linea. E grazie a Margherita che mi ha fatto la ricerca. La Fiatlinea, ho capito cos'è, perché la voce regata subito ti manda. E invece è una punto col sedere. Poi adesso mettiamo la foto della Fiatlinea sia su Twitter che su Facebook. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Margherita Ina e grazie a Tiziano Bonini, ovviamente. Grazie soprattutto a Emanuele. Intanto voi scaricatevi i podcast, ascoltate le puntate in streaming o altrimenti in diretta lunedì. Ma ripeto, grazie Emanuele, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Vanni, parlo da Pistoia, e la storia di lunedì è la mia e parla di una presenza strana che saltuariamente per 36 anni mi ha fatto visita. Questa è la mia storia ed io sono qui.